La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Io ho una certa diffidenza verso le parole che diventano di moda. Ci sono delle parole che ogni tanto tutti pronunciano e lì mi tiro un po' indietro. La parola di moda che mi suscita un po' di avversione di questi periodi è resilienza. E quindi quando il mio amico Giovanni Savarese mi ha proposto questa storia e c'era la parola resilienza, inizialmente ero timoroso, anche un po' diffidente, e invece sto per raccontarvi una storia fantastica. Basta togliere resilienza e mettere, rendere la vita molto bella partendo da un dolore terribile. Di solito ci si riferisce a esperienze di singoli individui, e quella che vi racconto invece è la storia, una storia che coinvolge una intera comunità ed è una vicenda che comincia da quella che può sembrare una fine, cioè la morte della protagonista. E quello che è accaduto nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi a quella tragica morte ha ispirato milioni di persone negli Stati Uniti e nel mondo. È una notte d'estate del 2011, l'11 agosto, nella casa di Ernie e Ellen Founder, nelle campagne di Iowa City, si è conclusa una festa di liceali. Il granaio di casa Founder è stato trasformato in parco giochi. Ernie ci ha messo un biliardo, le poltroncine, i cuscini, le freccette, una corda appesa al soffitto per aggrapparsi e sorvolare l'edificio. Insomma, abbiamo un padre che rende piacevole la vita dei figli. E a quella festa ci sono tutti gli amici della figlia più piccola dei Found, che si chiama Caroline. Tutti la chiamano Line, è una 17enne speciale, è la capitana, l'alzatrice della squadra di pallavolo del liceo della città. È conosciuta in tutta la comunità per la sua energia, per il carattere sorridente, esplosivo, di una allegria coinvolgente, quelle che potremmo chiamare le ragazze speciali. E quella notte Line prende un motorino, se l'è fatto prestare all'insaputa del padre, e saluta la sua migliore amica e va verso il suo destino. Sala pesi domani alle 7? No, assolutamente no, dormo domani. Chi si alza presto diventa titolare. Ok, va bene, alle 7. Questo è il nostro anno, Kelly. Il nostro anno. Ciao. Ci vediamo domani. La giovane vita di Line si conclude sulla strada verso l'ospedale cittadino, dove la ragazza si sta dirigendo per andare a trovare la madre che è ammalata di cancro. Quella strada lei l'ha percorsa decine e decine di volte, non indossa il casco e per qualche ragione sconosciuta perde il controllo del motorino, sbatte prima contro il guardrail e poi si schianta contro un albero a bordo strada, muore sul colpo. Questo è il ricordo di Ernie Found, il papà di Line. Ho scoperto cosa era davvero successo quando sono uscito sul viale. C'era l'auto dello sceriffo. Sapevo cosa significava. Sapevo di dover andare all'ospedale per dirlo a Helen. Lei era in cura con i farmaci per alleviare la sua condizione. Non ricordo bene la sua reazione. Il ricordo è confuso. Caroline Slocum Found nasce il 19 giugno del 1994 a Iowa City, nello stato dell'Iowa. Il padre, Ernie, è un famoso chirurgo ortopedico dell'ospedale universitario cittadino. E la madre, Ellen, è un personaggio particolare, molto attivo nella sua piccola comunità, è presente in ogni iniziativa di volontariato, dalla scuola, dalla chiesa. Caroline ha un fratello e una sorella più grandi, Greg e Catherine, e i Foundry, insomma, sono una famiglia, la tipica famiglia americana, molto unita, profondamente religiosa. Amano stare assieme, viaggiano spesso, ogni anno fanno una piccola scalata di famiglia. Ernie e Ellen si sono sposati in una chiesa ai piedi del monte Monadnock e tornano in quella chiesa anno dopo anno, arrivano fino in cima anche quando i figli sono piccoli. Caroline, l'abbiamo detto, è una ragazza speciale, ma nel nostro racconto per ora è una bambina speciale. Di lei tutti dicono che ama far star bene gli altri, qualità rara ma meravigliosa. È una che fa di tutto per far sorridere quelli che ha intorno, è piena di energia, qualche volta anche troppa. A 13 anni è ancora alle scuole medie, si avvicina alla squadra di pallavolo del liceo, lì gioca già la sorella Catherine. In quel periodo lei conosce Line, un personaggio molto importante per la nostra storia, è l'allenatrice, si chiama Cathy Bresnahan. Cathy allena Catherine, Line comincia a unirsi al gruppo delle ragazze più grandi sull'autobus per le trasferte e poi durante i match siede sulla panchina assieme all'allenatrice, ha una cartelletta in mano sulla quale segna tutte le statistiche, è vivace, tifa con urla forsennate, sommerge l'allenatrice di domande sulla strategia di gara. Insomma, Cathy stringe con lei un rapporto complesso, spesso è quasi disturbata dalla sua carica di energia, però non può fare a meno di affezionarsi a lei, diventa una sua figlia. Questo è il ricordo di Line che abbiamo chiesto direttamente a Cathy Bresnahan. Ecco cosa ci ha scritto. Caroline era appassionata della vita, scaldava gli altri con il suo sorriso radioso, ti abbracciava sempre. Faceva di tutto per far sentire gli altri importanti. Non importa si trattasse di un compagno di classe che soffriva di malattie mentali o qualcuno che non faceva parte del gruppo dei ragazzi più popolari della scuola. Chiamava tutti i suoi amici. Qualche volta Line è anche una ragazza senza freni, niente di grave, però ogni tanto la sua voglia costante di scherzi, di allegria supera i limiti. Non so, una volta mentre gli amici guardano un film horror, lei spunta dal buio e finge di aggredirli indossando una maschera da killer con un coltellaccio in mano. Va anche oltre, per esempio quando è al liceo viene punita per una scorrettezza in classe. Nelle scuole americane la punizione consiste nel rimanere in aula oltre l'orario delle lezioni, magari per tutta la giornata del sabato. Ecco il ricordo di una zia di Line, Marilyn. Era maliziosa, ma non era cattiva. È stata messa in castigo una volta al liceo per avere passato le risposte di un compito in classe ad un compagno. Siccome non le è stato permesso di lasciare la classe in cui era costretta per la punizione per il pranzo, ha ordinato la pizza. La pizza è arrivata, è stata pagata e l'hanno mangiata tutti. Era tipico di Line essere in punizione e decidere di ordinare la pizza per tutti. Quando inizia il liceo nel 2010, Line naturalmente entra nella squadra di pallavolo. Negli Stati Uniti lo sport studentesco è una cosa importante, non sono le due ore buttate lì in quasi tutte le scuole italiane. Ci sono allenamenti quasi da professionisti, impegno costante, ore e ore di palestra. Intorno agli allievi, che sono anche gli atleti, attorno alle loro partite si raccoglie la comunità intera con palazzetti sempre affollati. Genitori che seguono la squadra in trasferta, ma non per un tentativo di rivalsa sociale, proprio per il piacere di compattare un gruppo di persone, una comunità. E poi ci sono le televisioni che mandano in diretta le fasi finali dei campionati statali. L'allenatrice Katie ha fiducia in Line e le assegna, insomma, le dà il ruolo più importante nella pallavolo, l'alzatrice, un po' il regista, il setter, come si dice in inglese. È una specie di numero 10 del calcio, costruisce il gioco, fa le scelte importanti in partita e poi in campo è il braccio destro del coach, insomma è il vero leader della squadra. E Line ha delle doti di leadership naturali, anche se magari qualche volta fa diventare matta la la sua allenatrice. A volte poteva diventare l'incubo per un allenatore. Nessuno sapeva quello che avrebbe fatto. Ad esempio, stavamo facendo un riscaldamento pre-gara e non riuscivo a trovare la mia alzatrice. E lei era lì che parlava con le ragazze dell'altra squadra. Il campionato di quell'anno è una cavalcata verso la vittoria per le ragazze dell'Iowa City West, una stagione in cui lei diventa il cuore della squadra. È la prima vittoria di sempre per il liceo, che quindi è un fatto epocale per quella comunità. I festeggiamenti coinvolgono davvero tutti. Per Caroline e per la sua famiglia, fino a quel momento la vita è un quadretto felice, quasi da pubblicità, è perfetta la vita, è come non so, le pubblicità americane dei cereali per la colazione. Poi qualche mese dopo la vittoria nel campionato le cose cambiano per la famiglia Found e poi per tutta la comunità dell'Iowa City West. Ecco il ricordo di Katie Bresnahan. Sono seduta nella mia classe. È il lunedì dopo Pasqua, una bella mattina di primavera. Non posso fare a meno di guardare con nostalgia fuori dalla finestra. Le mie fantasticherie si spezzano quando la mia porta viene spalancata violentemente sbattendo contro il muro. Alzo gli occhi. Line irrompe attraverso la porta e si dirige verso la mia scrivania. Guardo la sua faccia, pallida. È terribilmente scossa. Caroline può essere drammatica a volte, ma capisco subito che non è quello che sta succedendo adesso. C'è qualcosa di terribilmente sbagliato. Brez, devo dirti una cosa. A mia mamma è stato diagnosticato un cancro al pancreas al quarto stadio. Mi afferra per le spalle. Tutti dicono che starà bene, dice. Sii onesta con me. Quali sono le sue possibilità? Le possibilità purtroppo non sono molte. Quel cancro non è operabile. La madre di Line viene sottoposta subito a chemioterapia e nel corso delle settimane le sue condizioni peggiorano. Deve essere ricoverata in ospedale. La sera dell'incidente Line sta proprio andando da lei per passare la notte con la madre. È quasi l'una di notte quando squilla il telefono a casa di Katie, l'allenatrice. Lei si sveglia di soprassalto, risponde. Dall'altro capo del telefono ci sono due compagne di Line, Shelley e Kelly, la sua migliore amica. Me l'hanno detto subito, senza preamboli. Hanno detto che c'era stato un incidente, che Caroline era sul motorino, che non era sopravvissuta. Ero incredula, non gli ho creduto. Nel mio subconscio ho pensato si trattasse di Ellen. Ho detto, intendete Ellen, vero? Loro hanno risposto, no, si tratta di Caroline. La mattina dopo Katie arriva nella palestra della scuola dove ha dato appuntamento alle ragazze della squadra e quando entra si accorge che ci sono decine di studenti radunati lì in silenzio, cercano sostegno, tanti sono in lacrime e insieme su suggerimento di Katie scrivono lettere alla famiglia Found, vogliono esprimere la loro vicinanza, scrivono lettere a Caroline e raccontano dove e quando l'hanno conosciuta, cosa ha significato per loro quella ragazza così solare. Insomma, è un primo modo disperato per elaborare il lutto assieme. Katie decide di portare le ragazze sul luogo della morte di Line. L'appuntamento è di lì a un'ora per dar modo alle famiglie delle atlete di accompagnarle. Quando arrivano sul posto si rendono conto per la prima volta dell'impatto sulla comunità di quella tragedia. La strada piena di gente, centinaia e centinaia di persone, e attraverso due ali di folla loro arrivano all'albero dove Line si è schiantata. L'allenatrice appende a un ramo la maglia numero 9, la maglia di Caroline. E alla veglia funebre, qualche giorno dopo, le persone sono diventate migliaia, ci sono le atlete delle squadre avversarie, ci sono persone comuni, ci sono le autorità cittadine, in più di 4.000 fanno la fila per portare le loro condoglianze alla famiglia. Al funerale, il giorno dopo, la madre di Line, Ellen, viene portata in ambulanza dall'ospedale perché ormai è terminale, non può camminare. Alla fine della cerimonia decide di alzarsi, di raggiungere l'uscita con le sue gambe, sorridendo a tutti quelli che allungano una mano e che cercano il suo sguardo. Questo è Ernie Found, il padre di Caroline, che è stato intervistato per uno speciale dalla TV americana HBO. È stato intervistato su questa vicenda. Ho iniziato a preparare la sedia a rotelle, ma lei ha detto: uscirò di qui camminando. E così ha fatto. È uscita dalla chiesa allungando la mano verso le persone. È incredibile dove abbia preso l'energia, dove abbia trovato la forza. Non lo so. È stata l'ultima volta che ha camminato, immagino. Sì. E infatti una settimana dopo quel funerale Ellen Found muore per le conseguenze del cancro. Ernie in 15 giorni ha perso la figlia e la moglie. Come si fa a sopravvivere alla scomparsa di una figlia, di una moglie, di Line e di Ellen? E lui lo scoprirà assieme all'intera comunità del Iowa City West High nei mesi successivi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia a tinte molto forti, una storia drammatica che tra poco volgerà verso un sorriso. È una storia che riguarda un'intera comunità. I colpi d'ala qui non sono di una sola persona, sono di tante colpi d'ala per risollevarsi da un dolore. La scomparsa di una 17enne, Caroline Found, una ragazza speciale che lascia un vuoto profondo non solo nelle persone che le sono più vicine, ma anche in tutti quelli che non l'avevano conosciuta personalmente. E poche settimane dopo l'incidente in motorino nel quale Line ha perso la vita, se ne va anche la madre e muore per un cancro. In questi casi non è retorica, la comunità che ruota attorno all'Iowa City West High è sotto shock. Le autorità scolastiche addirittura organizzano gruppi di sostegno con psicologi e con esperti. Buongiorno studenti. Mi piacerebbe fare qualcosa di diverso oggi. Mi piacerebbe fare un minuto di silenzio in onore della compianta Caroline Found, che abbiamo perso in un tragico incidente. Saranno disponibili consulenze per superare il dolore. E la vita senza Caroline Found ricomincia dal luogo che lei aveva amato di più, si riparte dalla palestra di pallavolo. È quasi impossibile da immaginare, ma ci provano, l'intera squadra riparte da lì, dagli allenamenti, dalla stagione che sta per cominciare, e loro stringono un patto, le ragazze: se a qualcuna di loro verrà voglia di piangere dovrà uscire dal terreno di gioco. Sono tutte d'accordo, perché a Caroline non sarebbe piaciuto vedere qualcuno che piange in campo. È un momento difficilissimo da gestire, soprattutto per l'allenatrice Katie. Sapevamo che ogni giocatrice avrebbe reagito in modo diverso. C'erano delle ragazze che si lasciavano andare e diventavano furiose verso se stesse e verso le compagne. Avevano deciso che non avrebbero mai pianto in campo. Così c'erano delle volte in cui una di loro veniva presa dall'emozione e correva fuori dal campo per piangere, e altre tre o quattro andavano a piangere con lei. Credo che si sia trattato di adattarsi alla reazione di ciascuna delle ragazze. E due compagne in quei giorni di dolore coniano una frase per ricordare l'amica scomparsa: Live like Line, vivi come Line. Questa esortazione verrà stampata su centinaia di magliette, sui braccialetti, diventerà il segno di riconoscimento per tutta la comunità. Una frase alla quale aggrapparsi per reagire. La scritta Live like Line apparirà in decine di nastri per capelli indossati da ogni giocatrice avversaria già dalle prime partite di quel campionato del 2011. La prima partita si gioca proprio il giorno dopo il funerale di Ellen Found. E nonostante questo, al loro ingresso in campo le ragazze notano sugli spalti Ernie, il padre di Line. Ho fatto molto per le giocatrici perché pensavo che gli sarebbe servito e dovevo farlo anche per me stesso. Per quanto difficile fosse. Certo, ma dovevo andare avanti. Cioè, voglio dire, quelle erano le sue compagne. Le dimostrazioni di amore, di affetto, di orgoglio sono state semplicemente travolgenti. Ed Ellen e Caroline era come se fossero lì. Ernie Found non perderà neanche una partita di quella stagione, comprese le trasferte. Sarà sempre lì sugli spalti con una maglietta Live Like Line che pian piano indosserà tutto il pubblico. La prima partita è una sconfitta. L'allenatrice sa bene che la questione in ballo non è provare a vincere il campionato per il secondo anno di fila in quella situazione, con quello che è successo, gli allenamenti, le partite, la pallavolo stessa sono solo un tentativo di andare oltre, di superare il trauma. E poi non c'è stato il tempo di trovare dal punto di vista tecnico una soluzione al problema più grande. C'è da sostituire l'alzatrice, la leader della squadra, c'è da sostituire lei, Line. Trovare chi prende la sua posizione in campo è un problema difficile tecnicamente, ma ovviamente soprattutto dal punto di vista umano è un affare complicato. Come nel copione di un film, la scelta cade proprio sulla migliore amica di Line, Kelly Fliehler. Mi è suonata la sveglia come tutte le mattine alle 5:59. Mi sono riaddormentata, non volevo alzarmi dal letto. Poi ho sentito questa voce irritante nella testa. La voce di Caroline. Lavora oggi, coach. Con tutto quello che le stava succedendo nella vita, lei giocava a pallavolo. Io penso che abbiamo bisogno di giocare. Adesso? Ora. Perché io? Eri la sua migliore amica. Loro ti osservano per capire se tornare a giocare. Ti prego, non darmi questa responsabilità, Bras. Scusa, l'ho appena fatto. Il campionato statale del 2011 è appena iniziato. La squadra dell'Iowa City West combatte con gli avversari, ma soprattutto con se stessa, per riuscire a giocare, per andare avanti. Attorno a quella squadra c'è un supporto che è più forte che mai. Nessuno lo dice, ma molti lo pensano. Bisogna vincere, bisogna farlo per ricordare Line. Il falco e il gabbiano. La squadra di pallavolo femminile dell'Iowa City West High, dopo la morte di Caroline Found, è diventata il riferimento per tutta la comunità locale e tutti si stringono attorno a queste ragazze per provare a superare una terribile tragedia collettiva. E attorno a quel gruppo si sta generando un'attenzione straordinaria che supera i confini della città, si propaga per tutto lo Stato. È un fenomeno del quale l'allenatrice Katie Bresnahan si rende conto fin dalle prime partite del campionato 2011. Persone da ogni parte dello Stato ci hanno contattato per esprimere la loro vicinanza e ad ogni partita le altre scuole ci hanno fatto trovare qualche tipo di tributo per Caroline. E quella che verrà definita la stagione miracolosa, titolo del film uscito di recente, trova anche una colonna sonora. C'è una vecchia canzone di Neil Diamond, era uscita nel 69, Sweet Caroline. In poco tempo quella canzone diventa un inno in tutti gli eventi sportivi dell'Iowa e anche oltre. Ecco cosa ci ha raccontato sempre Katie Bresnahan. Ho deciso di far suonare quella canzone dopo la nostra prima partita in casa. Quando ho visto quanta eccitazione e gioia provocava nelle nostre giocatrici e tra gli studenti, ho preso la decisione di metterla al termine di tutte le partite casalinghe. Chi chi ha vissuto quella stagione dall'Iowa City West racconta di una sensazione particolare, come se la motivazione delle ragazze, ma anche dello staff e anche del pubblico fosse potenziata, fosse irresistibile. E agli incontri ci sono folle di persone, tutti indossano quella maglietta blu con la scritta Live Like Line. Per le compagne di Line non è un percorso facile. Dopo la prima sconfitta ne arriveranno però solo altre 5 a fronte di 40 vittorie, una cavalcata che arriva fino alla finale statale che si gioca il 12 novembre del 2011, a 3 mesi esatti dalla scomparsa di Line. È un momento cruciale, carico di significati, ovviamente con terribili difficoltà emotive, prima tra tutte la difficoltà dell'allenatrice, di Katie. Scusatemi per avermi messo sotto pressione, ragazze. Non so come abbiate fatto a portarvi questo peso. Come avete fatto a non giocare semplicemente, ma a farlo con grazia. E vi avevo detto di vincere per Line. Come se in qualche modo desse un senso alla morte o ci aiutasse a sentire meno il dolore. Ma ora penso che dovremmo, se vogliamo dimostrare quanto ci manca, solo giocare con gioia. Quindi possiamo fare così, no? Le avversarie da battere per completare il miracolo di quella stagione incredibile sono le rivali di sempre, sono le ragazze dell'altro liceo importante di Iowa City. Insomma, è un derby cittadino e le televisioni trasmettono la partita in diretta. L'eco della cavalcata vittoriosa in ricordo di Line ha raggiunto un pubblico vastissimo, l'attenzione per quella finale statale è altissima e la partita comincia male, anzi direi malissimo. Le ragazze perdono i primi 2 set, ecco il ricordo dell'allenatrice. Nel campionato statale, quando a pallavolo sei sotto 2-0, ormai non hai più speranze. E gli avversari avevano vinto i primi 2 set, ma tutto quello che volevo è che le mie ragazze non perdessero anche il 3° set. Non se lo sarebbero mai perdonato. E in qualche modo sono riuscite a recuperare e abbiamo vinto i 3 set successivi. E i clamori della stagione del miracolo oggi ovviamente sono finiti. La storia di Caroline Found è diventata argomento di speciali televisivi, il più importante quello dell'HBO, poi è diventata argomento di un film. E il vero frutto di quel percorso è una fondazione creata proprio da Katie Bresnahan. Le donazioni, i proventi della vendita delle famose magliette Live Like Line e anche di altri gadget finanzieranno progetti scolastici per ragazzi economicamente svantaggiati. E il ricordo di Line è, come testimoniano le parole di Ernie Found, il ricordo resiste al tempo che passa. Circa 3 mesi fa qualcuno mi ha inviato una foto dalla muraglia cinese con addosso la maglietta Live Like Line. Ho ricevuto altre fotografie da diverse parti del mondo con la stessa maglietta da persone che nemmeno conoscevo. Piango ogni volta, ma allo stesso tempo, quando vedo questa maglietta, mi scalda il cuore. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.